passeggio stasera nei luoghi di 20 anni fa, dove era un antico quartiere immerso nell'oscurità. Oggi le strade di un tempo risplendon di luci e di mille balliò, ma intatti ritrovo i ricordi del primo mio sogno d'amor, vecchio quartiere della mia gioventù. Il tempo passa, sei cambiato anche tu. La sua casa coi fiori sul balcone, di quel tempo antico null'altro più rimane. Nella penombra di questa via noi ci scambiammo il primo sì, vecchio quartiere, appartieni anche tu a un vecchio mondo che non tornerà più. La sua casa coi fiori sul balcone, di quel tempo antico null'altro più rimane. Nella penombra di questa via noi ci scambiammo il primo sì, vecchio quartiere, appartieni anche tu a un vecchio mondo che non tornerà più, che non tornerà più.